Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Bentornati all'ascolto. Allora, ricorderete che alcune settimane fa dedicammo due puntate al Festival della Legalità di Ponteranica, in provincia di Bergamo. Questo comune divenne famoso perché un anno fa circa decise di non intitolare la biblioteca comunale a Peppino Impastato. Accadde il finimondo. In una delle due puntate il sindaco ci disse: bravi voi a contestare questa cosa a me, perché non andate a sentire il sindaco di Serra San Bruno, che ha fatto una cosa ancora peggiore della mia, secondo i vostri criteri e i vostri canoni, ci diceva il sindaco di Ponteranica, ha tolto da Serra San Bruno una intitolazione di una strada che si chiamava Vittime di Mafia. Quindi io promisi al sindaco di sentire il sindaco di Serra San Bruno, perché se fosse stata vera la storia sarebbe stata veramente inquietante. Poi ne ha parlato anche il giornale e qualche altro blog lo ha ripreso. Ed allora noi abbiamo, ovviamente mi fa davvero piacere, il sindaco di Serra San Bruno. Quindi ci troviamo in piena Calabria, Raffaele Lo Iacono. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori di Radio 24. Allora, io ho letto l'articolo del giornale, c'è stata questa dura polemica da parte del sindaco alla nostra radio. Insomma, come stanno le cose? Perché se veramente voi avete tolto Vittime delle Mafie dalle vostre, diciamo così, cartografia, io e toponomastica lo trovo un fatto davvero inquietante. È vero o non è vero? Guardi dottore, pensavo che questa sterile polemica di fine estate, insomma, fosse finita, invece eccoci qua. Invece vorrei dire intanto al sindaco di Ponteranica, Bergamo, se non erro, sì, che l'accostamento tra la sua iniziativa e quanto è successo a Serra è del tutto inappropriato, e mi spiego perché. Intanto la giunta comunale, in vista del nuovo censimento del prossimo 2011, ha inteso rivedere la toponomastica, ridenominando alcune vie. Tra queste vie ci sono alcune intitolate proprio a vittime della mafia, del terrorismo, uomini di guerra che hanno ricevuto la medaglia al valor militare. E tra questi ricordo vittime del terrorismo, Nicola Calipari, a Peppino Impastato, a cui lui non ha voluto dedicare la scuola, al generale Emilio, una vita contro il malaffare e la delinquenza, ai caduti di Nasseria, alle foibe, e anche alla vittime della mafia. A seguito di questa intitolazione, alcune famiglie di questa via, anzi quasi tutte, hanno, diciamo, sollevato una questione, cioè ci hanno detto: guardate, noi siamo disponibili a avere la nostra via intitolata ad una persona vittima della mafia, ma saremmo contrari ad avere questo aggettivo mafia per tutta la vita nei nostri documenti d'identità e di quelle dei nostri figli. Ecco, però sindaco, lei dice una polemica sterile e arida, e non lo metto in dubbio, perché quando poi diventa una contrapposizione politica di cui non mi frega assolutamente nulla, tale diventa, cioè sterile e arida. Lei fa parte del centrosinistra, la polemica è stata montata dal centrodestra, quindi la cosa non mi sorprende, però me lo lasci dire sinceramente per quello che penso. Francamente mi sembra veramente una presa di posizione sterile e arida, sì, quella di coloro i quali abitano in quella strada, ma cosa c'è da vergognarsi di avere sulla carta d'identità che si abita in via Vittime della Mafia? Io francamente, io personalmente ne farei un punto d'orgoglio, cioè il fatto che il mio paese ricorda tutte le vittime della mafia. Perché una in particolare, signor sindaco? Beh, guardi, secondo, diciamo, quanto hanno sollevato questi cittadini, avere questo aggettivo mafia, che loro contestano, odiano per tutta una serie di iniziative fatte in questo paese, ma in Calabria, hanno ritenuto di sollevare questa questione. Io devo dire sinceramente, però anche, non lo so, con leggerezza, anche sbagliato, però io ho ritenuto di accoglierla, e insieme abbiamo deciso di intitolarla a Rocco Chinnici, che è una persona vittima della mafia, il giudice istruttore del pool antimafia, che ricorderete ucciso, certo, nel 73, insieme, certo, a due carabinieri. Tra l'altro questa via è abitata anche da forze dell'ordine, quindi Sì, ricordare una vittima della mafia, uscire dall'anonimato di questa mafia, ricordare proprio una persona, così allora, come si è fatto in altre vie, con sindaco, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quindi, sindaco, io non metto in dubbio che sia ottima l'idea di dedicare una via a Rocco Chinnici, procuratore di Palermo, ucciso appunto nell'83. Però mi scusi, cioè io non sto facendo colpe, sto soltanto cercando di capire un fenomeno che non capisco, cioè quello della vergogna di avere sulla propria carta d'identità vie vittime della mafia. Cioè, ma intitolare a Rocco Chinnici non è un modo, come dire, anche così un po' furbesco di uscire da questo vicolo cieco? Perché non intitolarla una delle tante vittime allora calabresi, morte in Calabria per servire la vostra terra? Cioè, mi sembra un po' una piccola furbizia, signor sindaco. Non ne sono, come, non ho certezza, non ho verità, non porto verità, però mi sembra una piccola furbizia. Beh, guardi, io non ho la pretesa, insomma, di convincerla, però, insomma, nessuna furbizia. Noi continuamente lavoriamo anche con iniziative pubbliche qui a Serra San Bruno, ma anche in Calabria. Ma non ne dubito, non ne dubito, assolutamente. No, insomma, non c'è stata alcuna furbizia, insomma, pensi che questo è avvenuto nei primi d'agosto. Noi, insomma, va bene, allora facciamo minimamente di rifugiarci, certo. No. Allora facciamo in questo modo. Così, insomma, facciamo in questo modo, signor sindaco, visto che il tempo è scaduto. Vediamo se magari nelle prossime ore riuscite a trovare il modo di dedicare nella vostra toponomastica un'altra via, un'altra piazza che si chiami Vittime della Mafia. Questo è quello che dicevamo soltanto poche ore fa, e nel giro di pochissime ore è accaduto un piccolo miracolo laico. Vero, sindaco Lo Iacono? Sì, è vero. Dopo la trasmissione lei mi ha detto una parola che mi ha messo un po' vigile, lei ha detto che c'è stato un po' di furbizia, allora io immediatamente con gli uffici comunali ci siamo detti bisogna riparare a tutto questo, quindi abbiamo individuato una piazzetta molto centrale vicino al municipio, tra l'altro è l'ufficio postale alle banche, e l'abbiamo denominata Piazza Vittime della Mafia. Oh, questo è straordinario, in maniera tale che non rimanga neppure il minimo sospetto che ci sia, come dire, una pressione sociale o comunque una cappa di omertà nella vostra splendida città. Sono davvero contento, sindaco. Grazie, assolutamente non c'è mai stata, e anzi il nostro vivere quotidiano va contro quello status e quella forma mentis che ognuno ha di questa Calabria. Noi combattiamo giorno per giorno per far venir meno questi dubbi. E di questo ne sono convinto, e la sua prontezza, la sua intelligenza sicuramente le fa onore, così come fa onore a tutti i cittadini di Serra San Bruno. Grazie ancora. Grazie a lei, dottor Gallupo. E grazie, lo dico ovviamente, anche in regia a Peter Bescapè e in studio a Laura Faggin. Da Roberto Gallullo una buona giornata.